personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Per presentarvi il personaggio di oggi voglio farmi aiutare subito, perché sono sicuro che molti riconosceranno il personaggio dal brano che lo introduce. Certo, magari bisogna avere qualche anno sulle spalle, ma anche gli altri sono sicuro che comunque hanno percepito l'eco di questa storia, una storia cappa e spada di un eroe che aveva una firma inconfondibile con una lettera, la Z. Là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro. E lascia il suo segno, una Z a chi è degno, la Z che vuol dire Zorro. Sì, l'avete riconosciuto tutti, l'uomo con la maschera nera, la spada infallibile, quello che nella prima metà dell'Ottocento è stato il difensore dei poveri e degli oppressi in California, Zorro, che agiva appunto nella California che era ancora sotto il dominio spagnolo. Nessuno conosceva l'identità di questo eroe, però tutti lo cercavano, soprattutto la guardia spagnola, che esercitava un potere assoluto sul territorio. Però il corrotto vicereame della Nuova Spagna aveva i giorni contati. Erano anni di soprusi, di violenza, con questo potere centrale in mano ai bianchi di ascendenze spagnole, un potere pachidermico, burocratico, fondamentalmente iniquo, ingiusto. Per questo la California settentrionale, che era vicino agli Stati Uniti, che cominciava a respirare, a essere influenzata da questa organizzazione politica che sembrava si poneva come libera e democratica, cominciava a mordere il freno. La California era attraversata dal desiderio di indipendenza. Poi ci sarà una ribellione che partirà dalla regione messicana dopo 11 anni di lotte, e la California coglierà l'occasione per aggregarsi a questi moti e si libererà anche lei dal giogo spagnolo. E nel 1820 siamo ormai alle battute finali di questa guerra condotta dalle truppe dei ribelli messicani. Agustín de Iturbide e Vicente Guerrero contro il viceré di Spagna, questa era la contrapposizione. Alla fine i due ribelli riusciranno a proclamare l'indipendenza del Messico nel 1821. Insomma, la Spagna, nella storia della Spagna ci sono parecchi eventi nei quali qualcuno vuole rendersi indipendente e prima o poi ce la fa. E ce la fanno anche Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, e tutto questo farà parte poi di uno stato con capitale a Città del Messico, il Messico appunto. E la nostra storia comincia proprio prima della dichiarazione di indipendenza dalla Spagna. Los Angeles a quel tempo è una piccola cittadina, a meno di 1000 abitanti, gente di ogni tipo che si è stabilita attorno a una missione francescana fondata alla fine del Settecento. Attorno c'è un territorio immenso in mano a pochi possidenti, tutti di origine spagnola. E tra queste grandi famiglie di proprietari terrieri c'è anche quella dei De La Vega. Il capostipite è Don Alexandro, che è ormai vecchio e ha un figlio che si chiama Diego, Diego De La Vega, e il padre teme che il figlio non sia all'altezza del compito che lo aspetta, e lo si capisce anche ascoltando questo ritratto poco lusinghiero del giovane De La Vega. Don Diego veniva da una famiglia nobile che possedeva migliaia di acri, innumerevoli mandri di cavalli e di bestiame e vasti campi di grano. Don Diego, a sua volta, aveva un'azienda che era come un piccolo impero e anche una casa nel pueblo, ed era destinato a ereditare dal padre più di 3 volte quello che aveva ora. Ma Don Diego era diverso dagli altri giovani. Sembrava che non amasse l'azione. Raramente indossava la spada, tranne che come ornamento. Era estremamente gentile con tutte le donne, ma nessuna faceva la corte. Insomma, si è capito, Diego De La Vega preferisce la bella vita all'azione e sembra il classico figlio di papà. È uno di quei personaggi che preferiscono stare alla finestra a guardare invece che buttarsi nella mischia, prendere le parti di qualcuno. In realtà questa è solo una ingegnosa copertura. Va detto subito, la verità è che Don Diego della Vega è Zorro, forse perché è influenzato dagli studi che ha appena concluso in Spagna, forse perché in Europa è venuto anche a contatto con le idee più illuminate rispetto a questa spietata dominazione in California. Insomma, al suo ritorno non può fare a meno di constatare le difficoltà in cui vive il suo popolo e decide di fare qualcosa. È in una situazione politica però così delicata, è imprudente, è impossibile combattere apertamente l'esercito, il malcostume, schierarsi contro quelli coi quali tu dovresti combattere. Quando il nemico è molto forte bisogna fare diversamente. Conosco il vecchio proverbio: quando non puoi indossare la pelle del leone, indossa quella della volpe. Don Diego decide di ricorrere a uno stratagemma, si traveste, non è riconoscibile, può così intervenire liberamente nelle situazioni disperate. Indossa camicie e pantaloni neri, un largo mantello, un cappello con la visiera piata che è tipico della moda spagnola, naturalmente ha una maschera nera che gli ricopre la parte superiore del volto. In onore del proverbio, quello è meglio vestirsi da volpe che da leone a volte, e decide proprio di farsi chiamare Zorro, che in spagnolo vuol dire appunto volpe. E così Zorro comincia a fare, come dire, dei raid veloci a difesa dei poveri della contea di Los Angeles, azioni rapidissime, dei blitz, quasi sempre contro i soprusi che sta perpetrando l'esercito del viceré, che è composto da ufficiali corrotti, e tra tutti il peggiore di questi è il capitano Ramon, che ha un piccolo distaccamento di soldati alle dipendenze del sergente Garcia. Garcia è un uomo grande e grosso più che grande, un'area magari anche non molto pulita, però non è una persona cattiva, è molto meglio del suo superiore e infatti non ama molto il capitano Ramon. Al sergente Garcia piace il vino, lo si vede più spesso nella taverna del paese che non a combattere. È proprio qui che una sera lo troviamo che si sta lamentando con l'oste proprio di Zorro. Dice che non è vero ladro per tutti i santi. Dice che punisce solo coloro che maltrattano gli uomini delle missioni. Amico degli oppressi, eh? Di recente ha lasciato un annuncio a Santa Barbara che diceva così, no? Ah, e qual è la risposta? I frati delle missioni lo proteggono, lo nascondono, gli danno cibo e acqua. Scuoti la tunica d'un frate e ci troverai una traccia di questo bandito. Che sia dannato se non è così. E in quel momento entra proprio Don Diego, che in un certo senso è amico del sergente Garcia, un po' perché appunto Garcia non è cattivo e poi perché da lui può avere informazioni preziose riguardo alle sortite dell'esercito contro i cittadini, perché Garcia è anche un ingenuo, è uno che si lascia andare davanti a un boccale di vino. Così il sergente prova a parlare di Zorro. Diego sembra non amare la conversazione, alla fine lascia la taverna mentre il sergente Garcia continua a vantarsi: sarò io quello che catturerà Zorro, perché su Zorro in realtà l'esercito ha messo una grossa taglia che riscuoterà chi lo porterà ai soldati, vivo o morto. Sergente, ma abbiamo cavalcato per tutta la contea affiggendo centinaia di manifesti. Ma c'è una cosa che non ho capito in tutto questo tempo. Ma davvero? E che cos'è che non hai capito? I manifesti? Che cosa c'è scritto? Leggilo, sciocco. Io non so leggere. Ora capisci perché tu sei un soldato semplice e io un sergente. Dunque c'è scritto: 1000 pesos di premio a chiunque riesca a catturare, vivo o morto, il bandito che si fa chiamare Zorro. Oh, ecco che cosa c'è scritto. Chi è Zorro, sergente? Beh, deve essere... Se lo sapessi riscuoterei io la ricompensa. In ogni caso abbiamo finito. 1000 pesos, sono una bella cifra e il sergente Garcia vorrebbe proprio guadagnarseli. Pensa a chissà quante bevute potrebbe fare alla taverna con 1000 pesos. Qualche minuto dopo però si riapre la porta ed entra proprio lui, Zorro. Il sergente non crede ai suoi occhi, si blocca con la bocca spalancata e pensa: come può Zorro osare addirittura infilarsi nella tana del lupo? Il sergente si riprende, sfodera la spada, il duello dura poco, perché noi sappiamo che Zorro, cioè Diego della Vega, in realtà non vuol far del male al suo amico Garcia, è intenerito, lo vuole solo spaventare, togliergli quella la sicurezza. E così Zorro, dopo aver fatto questo atto dimostrativo, si allontana nella notte. E il mattino dopo Diego della Vega arriva a cavallo nella proprietà di Don Carlos Pulidos, che è un altro proprietario terriero che però ha fatto investimenti sbagliati, ha perso la maggior parte dei suoi averi, potremmo definirlo, diciamo, un nobile decaduto. Con lui vive Lolita, figlia diciottenne, che è molto bella, romantica, come può accadere a 18 anni. Quando Diego arriva dai Pulidos, Don Carlos è stupito, però è felice perché spera che la presenza di questo ragazzo, del rampollo di una casata nobile, lo metta in buona luce con i suoi creditori. È quello che dirà Don Diego, però ancora più interessante. Ho avuto una lunga discussione con mio padre ieri mattina. Mi ha informato che ho quasi 25 anni e un uomo con la mia ricchezza e nella mia posizione deve fare certe cose. Così ha deciso che devo prendere moglie. Mi aspetto che sarà di certo una gran noia. L'amore e il matrimonio e tutto quel genere di cose sono un fastidio necessario a modo suo, ma l'idea di un uomo di buon senso che corre dietro ad una donna suonando la chitarra per lei, a farle la corte come uno scemo, mentre tutti sanno le sue intenzioni. E poi la cerimonia. Essendo un uomo ricco e conosciuto, suppongo che il matrimonio debba essere elaborato e gli indigeni dovranno festeggiare. E questo solo perché un uomo sta cercando una sposa per iniziare una famiglia. Don Carlos, di fronte a questo discorso un po' strano, non capisce subito cosa Diego voglia da lui. Poi però capisce, l'ospite chiede la mano della figlia Lolita. Diego l'ha vista in chiesa, la trova bella, vuole sposarsi, ma non ha voglia di farle la corte. E Diego continua a recitare, insomma, questa parte, diciamo, da smidollato. Don Carlos è un po' perplesso da un lato, però non gli pare vero di potersi guadagnare un genero così ricco. E così Lolita viene portata davanti a Diego, la proposta viene rinnovata, la ragazza è disgustata dalla mollezza di quest'uomo, è un uomo senza passioni, si ritiene addirittura offesa dall'idea di essere considerata una mercanzia, insomma una femminista antelitteram questa Lolita, non ha voglia di essere comprata da questo ricco possidente, si rifiuta e al povero Diego non rimane che lasciare la casa dei Pulidos. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Stiamo parlando di Zorro, il cavaliere mascherato che nella prima metà dell'Ottocento, mentre la Spagna governava la California con un governo, diciamo, contraddistinto dal malaffare, dalla corruzione, Zorro cerca di riportare la giustizia difendendo il popolo maltrattato. E dietro la maschera nera di Zorro c'è un giovane gentiluomo, un insospettabile, Don Diego della Vega, tornato dall'Europa, rimasto sconvolto dalle ingiustizie che vede nel suo paese, un giovane uomo che decide di fare qualcosa anonimamente per avere più libertà d'azione, anzi addirittura crea una dicotomia profondissima tra la sua vita da Don Diego, che è una vita senza scopo, un giovane annoiato, indolente, che vive coi soldi del padre, che non si interessa a nulla, e invece la vita di Zorro, la volpe, perché Zorro vuol dire volpe, la volpe scaltra che tiene in scacco i soldati dell'esercito del viceré. E quando combatte, Zorro lascia sempre questa firma, con la punta della sua spada marchia la fronte o la guancia della sua vittima con tre veloci tratti per formare una Z, la mitica Z di Zorro. È l'unico che conosce il segreto della doppia identità di Don Diego e il suo fedele servitore Bernardo, e il giovane si fida di lui intanto perché conosce Bernardo fin da quando era piccolo, ma anche perché il servo è sordomuto, anche se volesse, insomma, avrebbe delle difficoltà a svelare il segreto, e per entrare e uscire di casa senza essere visto da nessuno Diego utilizza un passaggio segreto che mostra solo a lui, a Bernardo. No, non sono entrato dal balcone. L'altra notte, quando ho nascosto Tornado, mi è venuta in mente una cosa, un ricordo della mia infanzia. E così ora potrò andare e venire da questa casa nei panni di Zorro senza che nessuno mi veda. È un segreto che devi conoscere anche tu. Sembra di stare in un libro d'avventure, eh? E questo è soltanto l'inizio. Neanche mio padre sa dell'esistenza di questo posto. Credo che sia stato costruito da mio nonno come rifugio dalle incursioni degli indiani. Vieni, dobbiamo fare piano finché non arriveremo in fondo. Shh! Lo studio di mio padre è dietro questo muro. C'è un'entrata attraverso la porta. Tieni. Ora siamo sotto la casa. Più tardi ti mostrerò gli altri passaggi segreti. Tornado è l'altro grande alleato di Zorro, è il suo cavallo, è agile, è resistente, è intelligentissimo, lo aiuta a fuggire quando serve, a attaccare quando è il momento di attaccare, addestrato a obbedire a ogni ordine, e più di una volta è stato determinante per aiutare il suo padrone a salvarsi. Io ho un trucco, la mia bestia è addestrata a rispondere a un mio segnale. Quando è il caso, si allontana galoppando, facendo un gran rumore, così i soldati la inseguono. E quando è arrivata a una distanza sufficiente, si ferma e dopo che il pericolo è passato, ritorna ad aspettare i miei ordini. Ed è proprio Tornado che riporta Don Carlos nell'hacienda dei Pulidos. Questa volta però non c'è Don Diego che va lì, c'è Zorro che si introduce nel patio dove Lolita sta facendo la siesta, la sveglia delicatamente con la mano, e c'è un corteggiamento in piena regola e tutto il romanticismo che Lolita desidera le viene offerto a piene mani e arriva anche un appassionato bacio, naturalmente sulla mano perché siamo ai primi dell'Ottocento. Insomma, Lolita è vinta, si è innamorata perdutamente dell'uomo mascherato di Zorro che preferisce di gran lunga allo scialbo Diego. Nel frattempo Don Diego invita i Pulidos a trascorrere qualche giorno a casa sua mentre lui è fuori per affari. Don Carlos naturalmente accetta, non gli sembra vero di poter sfoggiare la sua amicizia con i De La Vega che potrebbero essere, come dire, una garanzia per i suoi debiti. Accetta e va con moglie e figlia e i genitori accettano l'invito di altri vicini e lasciano sola la ragazza a casa dei De La Vega. In serata arriva il capitano Ramon, il perfido, l'antipatico di questa storia. Lui ha visto Lolita a passeggio, si è innamorato di lei e va detto che Ramon le piace ancora meno di Diego. Lei vuole liberarsi delle avance di questo capitano. Ramon cerca addirittura di rubarle un bacio. Siamo in uno stalking in piena regola. Arriva improvvisamente Zorro, sfida a duello il capitano, lo mette in fuga e il bacio che Ramon non è riuscito a carpire viene invece concesso immediatamente all'uomo mascherato che agli occhi di Lolita è l'uomo ideale, lei è innamorata di Zorro. Non è come se fossi un ladro normale, so perché hai rubato, per vendicare gli impotenti, per punire i politici crudeli e per aiutare gli oppressi, so che hai dato ai poveri quello che hai rubato. Insomma, Zorro è veramente l'uomo ideale, ha tutte le qualità, tranne ovviamente una, quella della posizione stabile. E la ragazza vive di romanticismo, bisogna pensare al patrimonio, alle prospettive future. E certo, lei non può pretendere di vivere su un cavallo protetta da un mantello nero. Insomma, Lolita ha una scelta davanti, o sposarsi con quel noioso di Diego della Vega, oppure sparire romanticamente con un fuorilegge che rischia di essere ammazzato da un momento all'altro. Ma dimentichiamoci per un attimo di Lolita, torniamo alle cose serie, al nodo centrale, al capitano Ramon che si vuole vendicare del rifiuto della ragazza, invia una lettera al governatore dicendo che i Pulidos sono amici di Zorro, minaccia di farli arrestare e allora Zorro deve intervenire ancora, vuole di nuovo sfidare il capitano che però stavolta è protetto dai suoi soldati e Zorro deve scappare, lo insegue il sergente Garcia. Zorro si rifugia da frate Felipe della missione francescana e quando i soldati arrivano alla missione col frate trovano solo Don Diego che conversa del più e del meno con frate Felipe. E allora i soldati, irritati per non essere riusciti a catturare Zorro, tornano e arrestano frate Felipe con una falsa accusa. Il francescano viene condannato a essere frustato. Don Diego non può opporsi, ma Zorro sì, e appena becca da solo il magistrato disonesto che ha emesso questa sentenza, lo frusta a sua volta, lo serve con la stessa moneta. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Insomma, Don Diego della Vega continua a riscuotere, anzi a non riscuotere successo, anzi a venire paragonato a Zorro, per esempio, da Lolita, e quindi a vivere questa doppia vita di umiliazioni da un lato e di trionfi nascosti dall'altro. Va dal padre Don Alejandro e si fa maltrattare di nuovo anche da lui. Eh sì, il padre è disgustato dal comportamento del figlio, è seccato dal fatto che non sia neanche riuscito a convincere Lolita a sposarlo, cioè una nobile decaduta, neanche lei lo ha voluto. Don Alejandro comincia a minacciare Diego addirittura di diseredarlo, di lasciare i suoi soldi ai frati della missione. Insomma, è faticosa questa doppia vita per Don Diego, perché lui si è inventato questa parte da debole, da meschino, da diverso completamente rispetto a Zorro, da privilegiato che ha a cuore solo se stesso. Insomma, è difficile far convivere queste due anime. Don Diego, in quanto Don Diego, va ancora da Lolita a cercare di convincerla, anche per calmare il padre, ma una volta arrivato dai Pulidos si accorge che la ragazza ha in testa solo Zorro, gli parla dell'impresa di Zorro, di come abbia fustigato il magistrato, confessa a Diego di essere innamorata di un altro uomo, cioè di Zorro. Ma Lolita deve scontrarsi con la realtà quando il governatore fa arrestare Don Carlos e tutti i familiari con l'accusa di proteggere Zorro. E immaginate la reazione di Zorro, deve correre ai ripari. Qui bisogna fare un passo indietro. Qualche sera prima, da Don Alejandro si era riunito un gruppo di aristocratici, tutti giovani possidenti come Don Diego, il padre, gente impegnata solo a difendere i suoi privilegi. E approfittando di quella confusione, Diego si era allontanato, era tornato travestito da Zorro e con i giovani aristocratici che cercano di recuperare le loro spade, ma sono stanchi, hanno anche bevuto, insomma non sono all'altezza di reagire, e così Zorro ne approfitta e parla a tutti loro. Un degno gruppo di giovani lame, tutti qui a bere vino e a fare festa mentre l'ingiustizia è ovunque intorno a voi. Prendete le spade in mano e andate contro l'oppressore. Siate all'altezza dei vostri nobili natali e del vostro sangue blu, signores. Cacciate i politici ladri da questa terra, proteggete i deboli, il cui lavoro vi assicura i vostri possedimenti. Siate uomini, non ubriachi senza uno scopo. In qualche modo questa richiesta di Zorro, così appassionata, così vibrante, va a toccare qualcosa nel profondo di questi giovani debosciati, forse anche perché loro per primi stanno cercando uno scopo, una causa a cui votarsi, un motivo per vivere, insomma. E così le parole di Zorro producono una specie di miracolo. A uno questi ragazzi si uniscono, almeno nello spirito, all'uomo maschile e comunque si mettono a sua disposizione. E Zorro chiede loro, per provare la loro fedeltà, di aiutarlo a liberare i Pulidos che sono stati incarcerati ingiustamente. L'azione riesce e Zorro porta in salvo Lolita, la porta da frate Felipe, poi la lascia lì per andare a sfidare l'odiato Ramon. E c'è un ultimo compito che Zorro deve fare: denunciare pubblicamente la falsità del capitano. Così fa prigioniero Ramon, lo trascina davanti al governatore, lo costringe a confessare di aver scritto il falso nella lettera che denunciava i Pulidos. Una volta ottenuta questa ammissione, lo sfida di nuovo a duello, questa volta un duello all'ultimo sangue, muore chi perde. E di fronte c'è il governatore che li osserva impotente da un angolo della stanza. Ramon e Zorro si fronteggiano in una sfida terribile e disperata sfida che si conclude con la sconfitta e col ferimento a morte del capitano e con l'ultimo colpo di spada, con la firma implacabile, la Z di Zorro. Il governatore non crede ai suoi occhi. È vero che il capitano Ramone era un disonesto, ma qui si tratta di qualcuno che comunque ha ucciso un soldato, un fuorilegge che ha ucciso un soldato, va imprigionato. Ma Zorro è già scappato perché Lolita è ancora in pericolo, la ritrova, si rifugia con lei nella taverna che viene circondata dai soldati. La situazione è disperata, ci vuole un miracolo, e in quel momento arrivano i nostri, arrivano gli aristocratici, i giovani aristocratici debosciati e redenti, i Caballeros si chiamano adesso, conducono con loro il governatore, insomma ci sono tutti di fronte alla taverna, ci sono i soldati, c'è Don Alejandro, c'è il popolo, e il governatore minaccia di giustiziare Zorro e tutti si schierano dalla parte di Zorro, chiedono la grazia. Il governatore è costretto a concedere la grazia a furor di popolo, però a una condizione: che Zorro si tolga quella maschera e riveli a tutti la sua vera identità. E Zorro è costretto a farlo e nessuno può credere ai suoi occhi. Zorro e Don Diego della Vega sono la stessa persona, sembra impossibile. Nel momento in cui indossavo il mantello e la maschera, la parte di me che era Don Diego scompariva. Il mio corpo si raddrizzava, il sangue si rinnovava nelle mie vene, la mia voce diventava forte e stabile. Mi sentivo percorrere come da un fuoco. Poi, nel momento in cui mi toglievo il mantello e la maschera, ero nuovamente il languido Don Diego. Non è una cosa strana? Vivere una doppia vita non è stato facile, mostrare questa doppia personalità e peraltro con due poli proprio, un debosciato e un eroe. La ricompensa però per Don Diego è grande, ha fatto grandi cose per il suo popolo e adesso lo può fare alla luce del sole perché ha portato dalla sua parte anche gli altri nobili, ha conquistato finalmente per la prima volta la stima del padre e diciamolo, e soprattutto ha conquistato l'amore della sua Lolita. È una vittoria completa sotto il segno di Zorro. Abbiamo raccontato dei colpi d'ala di una persona che non poteva dire che era lui a compiere questi colpi d'ala, quindi un tormento e un eroismo assieme, Don Diego della Vega che diventa Zorro per difendere gli oppressi e come Zorro poi conquista anche la donna che ama. Cosa volete di più? Se avete dei commenti o volete segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi, a trovarci sui nostri e sui miei social, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.